Torniamo in voce con un'altra corrispondenza, una compagna da Bologna, una voce che conosciamo bene per uno spazio che conosciamo altrettanto bene e che amiamo anche. Stiamo parlando di Atlantide, a Bologna. Pronto? Ciao, ciao a tutti, ciao. Sì, siamo di nuovo noi, corriamo il rischio di essere anche noiose perché... però abbiamo l'urgenza di passare informazioni in relazione al fatto che siamo di nuovo a rischio. Innanzitutto mi presento, io sono Franca, faccio parte del gruppo femminista e lesbico Quelle che non ci stanno, che è una realtà che lavora principalmente sulla violenza maschile, ma non esclusivamente. Quindi ad ampio raggio condividiamo questo spazio, diciamo che lo spazio più evoluto della città, con altre due realtà nel rispetto dell'autonomia. Uno è Smascheramenti, che è una realtà gay, queer, che ha sempre lavorato insomma contro l'omofobia e la transfobia, e un altro gruppo invece punk che lavora più sulle autoproduzioni musicali. Sostanzialmente, come dicevo, questo spazio che è Atlantide ed è uno degli cioè lo spazio più evoluto della città o che dà maggiore possibilità di evoluzione a questa città, viene di nuovo messo in discussione. Ok, siamo uno spazio illegale, ma pensavamo e auspicavamo di esserci conquistate il riconoscimento sul campo, come si dice. In realtà questo non vale mai per le istituzioni, per cui siamo di nuovo nella situazione. Stamattina, tra l'altro, sembra anche più concreta delle altre volte, stamattina ci è stata recapitata la lettera appunto nella quale ci si intima a rilasciare lo spazio. Questo spazio quindi verrebbe assegnato ad altre associazioni che hanno intenzione di farci, non so, una sorta di museo all'interno. Ovviamente la nostra posizione non cambia minimamente rispetto a quella che è sempre stata, ossia il fatto che noi vogliamo stare qua, vogliamo che questo spazio in città continui a vivere con le questioni, i temi che questo spazio l'hanno abitato per 16 anni. E oggi siamo anche state come gruppo di donne qua dello spazio, siamo state ad una sorta di tavolo di genere che viene convocato in città e che sembrerebbe anche questa una cosa molto evoluta, in realtà apparentemente lo è ed è stata, come abbiamo detto quando siamo intervenute per segnalare il rischio della perdita dello spazio, se questa realtà, se le istituzioni in qualche misura cercano di farsi carico di un bilancio di genere o di un tavolo di genere che abbia un'attenzione specifica sulla città, lo fa perché le realtà di gruppi femminili o femministi sul territorio rendono ormai impresentabili delle istituzioni che non si facciano carico di questo. Sostanzialmente questo è il lavoro che noi facciamo sul territorio, è un lavoro di attenzione delle donne, il dedicare il meglio delle nostre energie alle donne perché ci si possa attrezzare. Crediamo che gli spazi per le donne siano un antidoto all'isolamento, al quale invece vorremmo essere confinate, e siano un'alternativa alle case, che spesso sono sale di tortura più inaccessibili dei bracci delle carceri speciali, e siano nei luoghi appunto nei quali attrezzarsi insieme per vivere in questo mondo, in questo pianeta che non è esattamente fatto a nostra misura. Quello che ribadiamo è quindi che le istituzioni si assumano la responsabilità di sottrarre uno spazio a chi in città fa questo lavoro, a chi combatte contro l'omofobia, la transfobia. Questo siamo andati insomma a porre un dato che non è eludibile, vedremo, inizieremo adesso la mobilitazione in città per constatare insomma quante persone sono effettivamente legate allo spazio e hanno e sentono l'irrinunciabilità di questo spazio. Questo insomma non ci sono già iniziative non, insomma in elaborazione per così per la resistenza, sì, di Atlantide. Abbiamo già fatto delle assemblee preliminari, adesso ci stiamo occupando di un minimo di comunicazione con la stampa e nei giorni successivi insomma a breve facciamo uscire gli appuntamenti e i momenti nei quali insomma dare una risposta e ribadire che vogliamo che questo spazio continui a vivere in città. E noi ovviamente ci risentiremo, ne parleremo in maniera anche più ampia di tutto ciò. Ecco, infatti, sì, so che oggi è un po' pressato Sì, adesso siamo in uno spazio piuttosto pressato, quindi ci risentiremo, però intanto se ci vuoi dare, non so, dei riferimenti internet per chi vuol seguire la vicenda. È stata riattivata, abbiamo il nostro blog, il blog di Atlantide. Atlantideresiste.noblogs.org, dico bene? Atlantide. Atlantideresiste.noblogs.org. Esatto, e poi c'è una pagina Facebook sulla quale anche circolano, insomma, le informazioni, circoleranno i comunicati, per cui questo è il canale attraverso il quale tenersi informati. Poi avremo canali più diretti, cercheremo, insomma, di tenere aggiornate tutte e tutti rispetto a come procederà. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo sicuramente prestissimo per un aggiornamento. Grazie mille, saluto a tutte, ciao, grazie ancora.